Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Il tabellone dell'aeroporto però ci lasciò sbalorditi. Quasi tutti i voli erano cancellati, compreso il nostro, verso la Svezia. Abbiamo contattato i colleghi in ufficio per avere supporto e ci hanno detto: c'è l'eruzione di un vulcano in Islanda. Sono Alessio Volonté, vivo a Lecco. Come sentirete dalla mia storia, viaggio spesso per lavoro, ma anche per piacere, visto che sono un appassionato fotografo. Venezia, 28 settembre 1786. Era dunque scritto nel libro del destino, alla pagina mia, che l'anno 1786, la sera del 28 settembre, alle 5, secondo il nostro orologio, avrei visto per la prima volta Venezia, entrando dalla Brenta nelle lagune. E che poco dopo avrei toccato questo suolo e visitata questa meravigliosa città di isole, questa Repubblica di Castori. Così Venezia non è più per me, grazie agli dèi, una semplice parola, un nome vano, come quelli che così spesso hanno tormentato proprio me, nemico mortale delle parole vuote. Mentre la prima gondola si accostava al nostro burchiello, mi sono ricordato d'un mio antico giocattolo, al quale non avevo forse pensato da 20 anni in qua. Mio padre possedeva un grazioso modello di gondola che aveva portato seco dal suo viaggio in Italia. La teneva molto cara ed era convinto di fare anche a me un gran regalo, permettendomi di trastullarmi con quella gondoletta. Così i primi rostri della lamiera luccicante e i felze neri delle gondole mi hanno salutato come una vecchia conoscenza, mentre rievocavo quella cara impressione della mia infanzia che da tanto tempo non mi era stata concessa. Mi trovo alloggiato bene alla Regina d'Inghilterra, non lontano da Piazza San Marco, ciò che rappresenta il più gran vantaggio per un albergo. Le mie finestre danno sopra uno stretto canale racchiuso fra case alte. Sotto i miei occhi un ponte ad una sola arcata e di rimpetto un vicolo angusto ma pieno di movimento. Questa è la mia abitazione e qui resterò per un pezzo, finché cioè non avrò finito il pacchetto da spedire in Germania e non mi sarò saziato dello spettacolo di questa città. Questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, buongiorno a tutti, ma le parole che vi ho appena letto sono quelle di Johann Wolfgang Goethe dal Viaggio in Italia, esattamente il capitolo di Venezia. In questa settimana, abbiamo già cominciato ieri che era lunedì, per tutta la settimana fino a venerdì, noi racconteremo storie di viaggio. Oggi è la storia di Alessio che avete sentito, forse avete capito a che tipo di eruzione vulcanica si riferisce e più tardi lo scopriremo con certezza. Ma visto che quando, anche giustamente, insomma in Italia si chiede di raccontare un viaggio come noi abbiamo fatto per questa settimana, si pensano sempre a mete esotiche, luoghi lontani, noi abbiamo deciso di aprire tutte le puntate di questa settimana invece con forse il più famoso viaggio in Italia che sia stato mai fatto. Era la fine del 1700, erano gli ultimi anni del 1700 e un tedesco doc arrivava in Italia sotto mentite spoglie e faceva questo viaggio magnifico in cui racconta questo paese che per alcuni versi è cambiatissimo e per altri invece è sempre uguale. Se avete voglia di leggere Il viaggio in Italia di Goethe, ci sono dei passaggi che raccontano noi e questo paese esattamente come se fosse oggi. Ma veniamo a noi, veniamo proprio ad oggi invece, anzi veniamo al 13 aprile del 2010, perché la storia di Alessio comincia proprio là e secondo me, se tornate un attimo con la mente a quel periodo, erano 4 anni fa praticamente, era la primavera di 4 anni fa, stavate probabilmente facendo quello che fate nella vostra vita, magari erano momenti particolari, magari no, ma tutti i telegiornali parlavano di una cosa, di un'unica cosa, dell'eruzione di un vulcano in Islanda. Quell'evento ha bloccato sostanzialmente il mondo per 2-3 giorni, ci fu un caos incredibile, si trovava nella parte meridionale dell'isola, leggo adesso da Wikipedia ovviamente, lui si chiamava Eyjafjall, che è il nome del vulcano islandese, ma per la prima volta io sento questa storia raccontata dall'interno. Noi tutti i giorni facciamo questa cosa, raccontiamo storie, continuiamo a raccoglierle. Voi siete qui, @radio24.it, se volete tornare indietro 4 anni fa e se volete provare l'ebbrezza di rimanere fermi, bloccati e avere 4.000 chilometri da fare per tornare a casa, state con noi e ascoltate la storia di Alessio. 13 aprile 2010, volo Scandinavian Airlines da Malpensa a Copenaghen. Poi, da lì, una coincidenza verso Göteborg. Era la prima volta in Svezia, per me. viaggio di lavoro. Come al solito avrei visto solo aeroporti, alberghi, autostrade e fabbriche. Ero accompagnato da un mio collega, compagno già di varie disavventure durante le trasferte aziendali. L'ultima, pochi mesi prima, si era conclusa con un'enorme buca in autostrada ed una gomma tagliata. Nottata passata di conseguenza tra carro attrezzi e officina. Questa volta però sarebbe andato tutto liscio. Il viaggio si preannunciava breve e lineare. Ne ero convinto, fino all'atterraggio a Copenaghen. Il tabellone dell'aeroporto però ci lasciò sbalorditi. Quasi tutti i voli erano cancellati, compreso il nostro verso la Svezia, ovviamente. Abituati a quanto accade dalle nostre parti, subito abbiamo pensato ad uno sciopero. Abbiamo contattato allora i colleghi in un ufficio per avere supporto. C'è l'eruzione di un vulcano, ci hanno detto. In Islanda. Stanno mettendo a terra tutti gli aerei. No. Noi proprio non eravamo dell'umore di scherzare. Un vulcano. In Islanda, poi. Così distante. Ci siamo procurati un accesso internet per verificare cosa davvero stesse accadendo. Un vulcano. In Islanda. Eyjafjallajökull. La cenere restava sospesa in aria e veniva trasportata dalle correnti. Era pericolosa per i motori dei jet. All'inizio eravamo un po' perplessi sul vulcano, stentavamo a crederci. Pensavamo fosse uno sciopero, perché siamo abituati a quello che succede in Italia. Poi dopo ci siamo rassegnati, perché collegandoci a internet tutti i siti di informazione sulla prima pagina riportavano questa notizia. Noi siamo rimasti di sasso, ma non ci siamo persi d'animo. Abbiamo acquistato un biglietto per il treno che attraversa il mare sull'Øresund Bridge, raggiungendo dopo molte ore la nostra meta. L'indomani abbiamo visitato il nostro cliente. È stata una visita proficua e soddisfatti ci siamo diretti verso l'aeroporto di Göteborg, pregustando il nostro ritorno a casa. Complice la difficoltà di accedere ad internet all'estero, eravamo completamente all'oscuro di quello che ci aspettava. No one fly today. Maybe for 4 or 5 days no one can fly. Nessuno vola, forse per 4 o 5 giorni ancora. Il panico inizia a farsi strada. No, 4 o 5 giorni non volevamo attenderli. Per di più era venerdì, la settimana successiva ci aspettavano altri impegni serrati e nessuno aveva voglia di passare il weekend lontano da casa. Well, you almost have a fit. This guy's coach and I got hit. There's no mistake. This is it! Till it's over and then it's nice and quiet, shh, shh, but soon again, shh, shh, starts another big riot. Il primo tentativo, quindi, è stato il noleggio dell'auto. Avevamo calcolato, io e il mio collega, che alternandoci alla guida nel giro di un giorno e mezzo, massimo due, saremmo arrivati in Italia. Ma i costi di noleggio erano astronomici. Un po' per il fatto di dover passare diversi stati con l'auto, un po' perché sicuramente le circostanze avevano fatto lievitare le tariffe. La nostra mente ha iniziato allora a macinare soluzioni in fretta. Forse potevamo noleggiare la macchina fino al confine, poi restituirla, poi rinoleggiarla in Danimarca e così via. No, troppo complesso. O forse il nostro collega svedese, che stava risalendo dall'Olanda, ci avrebbe potuto prestare la sua auto per il ritorno. No, non saremmo poi riusciti a riportarla indietro. Abbiamo passato in rassegna soluzione dopo soluzione per decidere di investire una somma consistente per farci portare in taxi a circa 200 km di distanza, nella città di Jönköping. L'unica stazione dalla quale eravamo riusciti a prenotare un treno verso Copenaghen. Sì, perché anche il treno non era più accessibile come il giorno prima, nessun posto libero da nessun luogo e per nessun luogo. Quando il treno finalmente è partito, in ritardo ovviamente, è stato un sollievo. Il lungo viaggio verso casa era iniziato. Tappa numero uno, poi l'ignoto. A Copenaghen avremmo dovuto inventarci di nuovo qualche cosa. Rischiavamo di dover passare diversi giorni in Danimarca. Da casa le notizie che ci venivano riportate ci portavano inquietudine, parlando di sovraffollamento su ogni possibile mezzo. E infatti i nostri più foschi presentimenti si concretizzarono all'arrivo alla stazione centrale di Copenaghen. Coda, coda, coda, a perdita d'occhio. ci siamo persi d'animo, pensavamo che saremmo rimasti in Svezia per una settimana ad un certo punto, stavamo già pensando come sfruttare il tempo per fare qualche visita turistica. Il dilemma, mettersi in attesa o cercare un hotel. Dopotutto erano già le 19, ma la scelta non c'era, come abbiamo scoperto presto. Un hotel con una camera libera non si trovava. Quindi, per occupare il tempo, tanto valeva mettersi in coda. Dopotutto, la fortuna aiuta gli audaci o i volenterosi, e contro ogni aspettativa, mezz'ora dopo la mezzanotte, siamo riusciti ad acquistare un biglietto per il treno notturno locale verso Amburgo. Iniziava la tappa numero 2. Il viaggio è stato di quelli che rimandano alla mente i treni dei tempi passati. La carrozza era stracolma. Non solo non c'era spazio per sederci, ma non c'era nemmeno posto per stare accovacciati tra i sedili. Il tutto era snervante. Il treno fermava ad ogni minuscola stazione e a un certo punto, nel cuore della notte, ci hanno fatti scendere in una spettrale sala d'attesa in mezzo alla campagna e ci hanno detto che il convoglio era sostituito per il tratto da lì ad Amburgo da un autobus. Tutto perché, francamente, non me lo ricordo. Forse la rabbia e la frustrazione di quei momenti me l'ha fatto dimenticare. Ad Amburgo la scena, ovviamente, è la stessa di Copenaghen. Potete immaginarlo. Però lì siamo ripartiti alla fine. Tappa 3. Questa volta su un treno molto più moderno e rapido, con un biglietto che ci assicurava il viaggio fino a Zurigo, sempre più vicino a casa, finalmente. L'umore migliorava, ma l'odissea non era finita. L'ultimo treno per l'agognata tappa numero 4, Zurigo-Chiasso, partiva pochissimi minuti dopo il nostro arrivo previsto a Zurigo stessa. La mente quindi si è messa a correre veloce. Come fare? Io mi sono messo in contatto con un amico in città, fortunatamente, che si è reso disponibile ad acquistare i biglietti per noi. Ma Martino, questo amico, non poteva trattenersi in stazione fino al nostro arrivo, per inderogabili impegni in quell'orario. Ha verificato quindi su che binario saremmo entrati in stazione. Ha individuato un edicolante cui affidare in custodia i biglietti e si è raccomandato di consegnarli solo quando sarebbero comparsi due ragazzi con la parola d'ordine concordata, Göteborg, per ricordare da dove il nostro viaggio era iniziato. Siamo arrivati in stazione e subito abbiamo cercato l'edicola. Non è stato facile farsi dare i biglietti. Ve li immaginate, due italiani che cercano di far pronunciare la svedesissima Göteborg a uno svizzero tedesco? Maledetti noi e la nostra parola d'ordine. Per farla breve, abbiamo preso i biglietti ma abbiamo sbagliato binario per il treno in partenza. Abbiamo recuperato per poco l'errore con un ingresso nel treno praticamente al photo finish. Era domenica 16 aprile. Esausti, tra le curve dei binari che si lanciano verso i passi alpini, ci sentivamo oramai arrivati. Da Chiasso, in 40 minuti, avremmo potuto raggiungere casa. Non volevamo proprio pensare che mancava ancora la tappa numero 5 e la tappa numero 6. Trovare un modo per arrivare a Malpensa, per recuperare la nostra auto e da lì ancora guidare verso casa. In piedi davanti alla macchina fotografica Alessio, nella foto che ci ha mandato, che trovate sul nostro sito, la nostra pagina, ha un giubbotto neanche troppo pesante addosso ed è ovviamente sulla banchina di una stazione. Alle sue spalle in alto si legge Hässleholm Malmö e sono le 6:05 del pomeriggio. Pronto Alessio, buongiorno. Ciao Matteo. Come stai? Sto bene, grazie. Dove ti trovi in questo momento? In questo momento mi trovo al lavoro, sono uscito un attimo, sono apposta. In macchina per avere un attimo di tranquillità. Ah, ok, di solito qualcuno al lavoro si chiude in bagno, tu invece hai scelto giustamente l'automobile. Senti, questo ti ringrazio per questa storia, perché quel vulcano, tra l'altro qualche tempo fa è uscito anche un film, se non sbaglio, che si chiamava Tutta colpa del vulcano, in cui due, un uomo e una donna rimangono a terra perché l'aereo non parte e si incontrano, e parte la solita storia d'amore. Devo dire che quella storia lì, dall'interno, non l'avevo mai sentita. Cioè, non avevo, tu me la ricordo benissimo, mi ricordo di un amico che organizzava viaggi, che ci aveva guadagnato un sacco di soldi organizzando viaggi con gli autobus, tu figurati dall'Italia, ma non voglio toccare questo tasto. Però una storia proprio dall'interno non l'avevo mai sentita, ed è stata veramente un'odissea, giusto? È stata veramente un'odissea, soprattutto perché nessuno ovviamente se l'aspettava. Poi quando ti dicono questa cosa del vulcano, all'inizio non ci credi neanche, perché io non ho mai sentito prima di questo problema, che gli aerei non possono volare quando c'è un vulcano nelle vicinanze. Quindi all'inizio eravamo proprio increduli e pensavamo quasi uno scherzo i primi momenti. E quindi puoi immaginarti il nostro stato d'animo, tanto è vero che poi nel primo momento pensavamo che era una cosa che si sarebbe risolta molto in poco. Infatti voi di fatto il problema ce l'avete già all'andata, giusto? Poi però prendete il treno, andate alla, insomma, fate l'incontro che dovete fare, e quasi ve lo siete dimenticato di sto vulcano. Sì, noi quasi ce lo siamo dimenticato, perché abbiamo pensato, ma sarà una cosa temporanea, domani torniamo a casa e è tutto a posto. Certo, e invece. E quindi eravamo abbastanza tranquilli. È stato quando siamo arrivati nel terzo secondo giorno che abbiamo realizzato che il problema era molto più semplice. Era più grossa di come immaginavate. Tra l'altro, senti, il nome di questo vulcano, tu lo sai pronunciare? Eyjafjallajökull? No, assolutamente, ti dico la verità, non l'ho mai imparato, forse è una cosa freudiana, non ho mai voluto impararlo, ma è veramente un nome assurdo. Quindi sì, non è facilmente comprensibile. Che lavoro fai esattamente, Alessio? Allora, io sono il responsabile tecnico di un'azienda che fa impianti industriali per la verniciatura. Ok, quindi cioè verniciatura di che cosa? Verniciatura di tutto quello che è metallico. È una verniciatura un po' particolare, a polvere. Uh-huh. La materia prima non è liquida, ma è polvere. Cioè, verniciate con la polvere, che figata. Cioè, sparate addosso al metallo e il metallo se ne impregna? Più o meno. Noi facciamo le macchine che sparano la polvere addosso al pezzo. Ah, ok. E poi dopo il pezzo va in un forno in cui viene scaldato a alta temperatura, la polvere si scioglie e diventa un amalgama unico. E quindi tu verniciate che cosa? Tipo automobili? Non automobili. Ma si fa un po' di tutto quello che è metallico. Tutto quello, ok. Quindi automobili, elettrodomestici, scaffalature, di tutto. Senti, invece, torniamo un attimo a quel viaggio. Tu l'hai diviso in tappe, giustamente. Qual è la tappa più terribile che ti ricordi? La tappa più terribile che mi ricordo è quella notturna da Copenaghen ad Amburgo. Sul treno? Sul treno, forse perché era notte, sai, di notte tutto poi sembra assume contorni, assume connotati più drammatici, certo. Insomma. Però è stata veramente una tappa pazzesca, perché eravamo su questo treno stipati, non c'era posto, si fermava ad ogni stazione come i locali che abbiamo qua in Italia. Cioè, i termini di paragone sono i locali degli italiani, giustamente. Esatto. Giustamente. E in più avete dovuto prendere un autobus a un certo punto. In più, esatto, a un certo punto, non mi ricordo neanche perché, il treno si è fermato e ci hanno detto che bisognava scendere, c'era un pezzo sostituito con un autobus. Solo che ovviamente poi immaginate, l'autobus non era lì pronto ad aspettarci. Chiaro, in quelle condizioni. Chiaro. Invece scusami, ma in queste condizioni drammatiche di solito capita magari di fare amicizia con qualcuno, di scambiarsi quattro chiacchiere, poi di affezionarsi a vicenda? Vi è successo? No, eravate già in due, vi è bastato? No, ci è successo di scambiare quattro chiacchiere sui treni con gli altri nelle stesse nostre situazioni. Ovviamente ci si confronta, si vede quali sono le tappe di origine di ognuno e chi arriva da più lontano, però non c'è niente che è rimasto poi dopo il viaggio. È straordinaria l'idea della parola d'ordine, Göteborg all'edicolante svizzero. Siete stati veramente dei geni proprio, anche perché immagino che farglielo pronunciare, come dici, non sia stato così facile, o farglielo capire quantomeno. Sì, esatto, è stato un colpo di genio al contrario. Alessio, senti, ti immagino lì nella tua auto al caldo, quindi ti lascio tornare al lavoro, che ci avrai riunioni su riunioni da fare, immagino. Esatto. Solito è così. Va bene, ti lascio andare, ma ti ringrazio per questa storia. Grazie a te. Ciao, in bocca al lupo. Matteo. Ciao. Eyjafjallajökull, che poi detto in islandese o come sia, credo che sia tipo Eyjafjallajökull, nel senso che poi nel nord Europa c'è sempre un modo un po' angolato di parlare. E ringrazio soprattutto Claudia al 349-238-6666 che mi ricorda I sogni segreti di Walter Mitty. Ecco qual era il film in cui a un certo punto lui, che era Ben Stiller, è un film di quest'anno, dello scorso inverno, in cui Ben Stiller, che fa anche la regia del film, è una specie di un impiegato di Life, ed è un road movie in cui va in giro e a un certo punto arriva anche lì in Islanda, e mi ricordava esattamente questo tizio che dice Eyjafjallajökull, che faceva ridere solo la pronuncia, e incontra proprio nel momento in cui erutta quel vulcano lì, e da cui tutta la storia che ci è arrivata e che ci ha raccontato anche Alessio. Noi continuiamo a raccontare storie di viaggi per tutta la settimana fino a venerdì, e poi lasciamo la parola, il microfono e la voce al nostro collega Giampaolo Musumeci, e poi noi torniamo a settembre. Quindi continuate a mandare le vostre storie, voi siete qui @radio24.it, e continuate a scaricare l'ebook sul nostro sito oppure su Amazon o dove vi capita. Grazie a Paulino Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita Ina, grazie soprattutto ad Alessio, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa.